Allora, 19:02, proviamo a fare questa diretta nonostante gli innumerevoli problemi di mal di gola del sottoscritto. Siamo già in diretta da Revdar dalle ore 17. Abbiamo mandato il podcast di Malaradio 40 minuti da busto e alle 18 il consueto appuntamento con Radio Fango FM e ora proviamo appunto a fare la diretta di Cronache di Regime. Sigla. Ci sono muri che sentono e vedono, ci sono spie nel mio microfono, so bene che sono soltanto un numero tatuato sotto la pelle, con un codice a barre come sbarre d'acciaio. Non credo alle palle, hanno messo gas in nome del progresso nel mio ossigeno. Controllano, parlo al telefono, camuffo il mio lessico più che il braccio di un tossico. La mia testa stretta da un laccio, catene di montaggio, uomini automi danno olio all'ingranaggio. Con le bianche al potere, tra bocchini sotto scrivanie tracciano strategie per nuove lobotomie. Squali vogliono vegetali, schiavi in fila come militari, perciò mandano i loro emissari a scuola i miei professori, in strada pubblici ufficiali, messaggi subliminali nei televisori, predicatori vendono la fede a rate, comprare ubbidire, ma non sapranno mai le mie coordinate. Non hanno capito che la chance che mi piego subito, che una moneta cade croce 100 volte di seguito, valgo più di 4 cifre, non credi? Cronache di regime, cose che non vedi, cose che non vedi, che non vedi, cospirazioni, cospirazioni per il 2000, per il 2000, sempre scuola, sempre scuola, sempre scuola. Allora, come detto, proviamo a fare la diretta oggi, nonostante i miei problemi di mal di gola. Oggi parleremo di svariate argomentazioni. Presenteremo il libro Il nemico non ha pietà, scritto da Marco Bobba, e ci faremo una chiacchierata con l'autore. Poi parleremo un po' di carcere, le solite news che arrivano dal carcere. E proveremo a lanciare il presidio di San Vittore, che si terrà l'8 marzo. Poi proveremo a fare un'intervista con un compagno che ci spiegherà un po' com'è andata la settimana di mobilitazione in vista del corteo che c'è stato ieri domenica, il corteo per la libertà di Pablo Hasel e gli altri ragazzi che sono ancora in carcere riguardo le mobilitazioni l'anno scorso in Spagna. Proveremo a fare una chiacchiera con un compagno della Sharp Milano riguardo l'avvicinamento alla giornata del 16 marzo al corteo di Dax, e poi proveremo a fare un'intervista con i Bull Brigade e proveremo a presentare, se mi reggerà la voce, il loro CD Il fuoco si è spento. Ora intanto, siccome da giovedì i venti di guerra tirano anche in Europa, ciò non vuol dire che la guerra in realtà non esista o non esista tutti i giorni ovunque, però appunto siccome la Russia di Putin sta occupando militarmente l'Ucraina, mettiamo un pezzo di un gruppo punk hardcore torinese, anarco punk hardcore, in realtà si chiamano i Bad Boys. Pace non vuol dire solo niente guerra. E poi torniamo in diretta e proviamo a fare la prima intervista della giornata. We'll be right back.

Allora, torniamo in diretta. Ci proviamo con i consueti problemi tecnici a sto giro. Un problema di voce, un problema di gola. Allora, ora proviamo a dare un po' di aggiornamenti dal carcere, come ogni settimana. In questo giro saranno un po' più brevi, perché poi dopo sentiamo, proviamo a sentire una compagna per il lancio del presidio che ci sarà a Milano, a San Vittore, l'8 marzo, appunto a distanza di 2 anni dalle rivolte che ci sono state nel 2020 nelle carceri italiane, e nello specifico a distanza di 2 anni dalla rivolta che c'è stata a San Vittore, anche perché, come dicevamo settimana scorsa, è appunto arrivata la condanna di primo grado per i fatti avvenuti nel 2020 lì, e sono stati assolti 5 detenuti mentre 4 sono stati condannati. Comunque, in questa settimana cosa è successo nelle carceri italiane? Non tanto, o perlomeno le notizie che ci sono giunte, le notizie che ci sono giunte dai mass media di regime, sono veramente scarne. Comunque, in questa settimana c'è stato un detenuto che ha aggredito 2 agenti a Sassari, devastando la cella, allagandola e distruggendo gli arredi, e poi a quanto pare si è scagliato contro 2 secondini con calci, pugni e morsi. E i secondini sono dovuti ricorrere al pronto soccorso, questo è quello che dicono loro. E logicamente, quando i sindacati del SAP si lamentano di questi avvenimenti, in realtà poi non dicono mai cosa succede dopo al detenuto che si è scagliato con calci e pugni, perché nel 99% dei casi i detenuti che provano ad aggredire i secondini vengono poi pestati e messi in isolamento. Dopo settimana scorsa che c'è stata anche la lamentela del garante dei detenuti Campano a riguardo delle fake news che arrivavano appunto su rivolte ed evasioni, scusate, sulle rivolte all'interno delle carceri, in particolare nelle rivolte così chiamate rivolte di Ariano Irpino e Santa Maria Capua Vetere nelle 2 settimane scorse. Effettivamente non ci sono molte notizie, ci sono, insomma, c'è un po' di subbuglio tra i secondini per le loro condizioni, ma questo poco ci interessa. Comunque, nelle carceri di Matera e Taranto, da notare che quando parlano delle problematiche del carcere di Taranto, i giornali parlano di affollamento e non di sovraffollamento. È interessante notare come usano anche loro i loro termini, insomma. Quindi da sovraffollamento ad affollamento. Una notizia che riguarda il DAP, come avevamo detto un po' di tempo fa, Petralia aveva lasciato la carica del DAP e al momento è salito Carlo Renoldi come capo del DAP, che è un giudice cassazionista e tendenzialmente avrebbe posizioni contrarie al rigore del 41 bis. Questo è quello che dicono, insomma, i potenti quando devono fare carriera. Poi sappiamo benissimo che la gente quando arriva in 41 bis viene intombata e rimane lì a marcire. Un'altra notizia che abbiamo, e quindi un aggiornamento riguardo a delle evasioni che c'erano state a gennaio, nello specifico l'evasione di Vercelli. Un detenuto era ancora libero e selvaggio, è stato in realtà arrestato in Olanda. Il detenuto che era scappato il 1° di gennaio a Capodanno, quindi questo detenuto è stato arrestato in 2 evasioni che c'erano state

proviamo a tornare in diretta con Cronache di Regime e, come detto prima, proviamo a farci una chiacchiera con una compagna riguardo il presidio che ci sarà a San Vittore l'8 marzo alle ore 18 e più nello specifico ci facciamo una chiacchierata con lei, come detto prima. Ciao, ci senti? Pronto, sì, mi sento. Sì, scusa, i problemi tecnici alla mia voce. E niente, comunque avevamo anticipato prima, insomma, che ci sarà il presidio a 2 anni dalle rivolte in carcere del 2020 e quindi se hai voglia di farci una panoramica un po' generale di quello che è successo nel marzo 2020 in Italia e nel mondo delle padre galere. Allora sì, appunto martedì 8 marzo alle ore 18 ci sarà un presidio fuori le mura di San Vittore a 2 anni da quelle che sono state le rivolte che hanno infiammato le carceri quando ci fu l'inizio della pandemia. Tra l'8 e il 9 marzo 2020 quasi tutti i penitenziari d'Italia hanno visto al loro interno delle rivolte, dei movimenti molto molto forti. Sono scoppiate un po' da una serie di fattori. Il primo di tutti, che giustamente i prigionieri e le prigioniere avevano paura di vivere quella condizione. Le notizie che giungevano da fuori erano spaventose e per di più ad un certo punto, oltre a essere rinchiusi in un luogo dove ben sappiamo qual è la condizione sanitaria e igienica, ad un certo punto, oltre a vivere già in quella condizione di merda, gli è anche stato negato di poter vedere i propri affetti. Tutti coloro che partecipavano all'ambito educativo all'interno del carcere e i loro avvocati, mentre le guardie continuavano a fare dentro e fuori. Le rivolte sono scoppiate appunto anche perché di quella che era la situazione disastrosa all'esterno, le notizie giungevano solo tramite la televisione perché loro non avevano più possibilità di avere alcun contatto all'esterno con avvocati, educatori o soprattutto i propri affetti. Dopo le rivolte c'è stata una repressione violentissima, violenze di tutti i tipi fino all'epilogo più tragico che sono state le morti all'interno del carcere di Modena. E oltre proprio ai brutali atti compiuti dalla polizia dentro le mura in quei giorni, la repressione poi è proseguita anche negli anni successivi con tutta una serie di processi a carico di chi aveva osato alzare la testa. Da poco si è concluso il processo a Milano ai rivoltosi di San Vittore, dove appunto le accuse erano pesantissime, andavano da sequestro di persona a devastazione e saccheggio e si sono conclusi con pene fino a più di 5 anni. Sì, 5 anni e 4 mesi. Esatto, sì, 5 anni e 4 mesi. Lo dicevamo l'altra volta nel esatto. programma, che poi nel frattempo è iniziato anche il processo per la rivolta nel carcere di Salerno. Settimana scorsa sono arrivate 29 custode cautelari per la rivolta che c'è stata nel carcere di Melfi. E insomma, come dicevi tu benissimo, la repressione avanza e lo Stato non si dimentica dei suoi nemici neanche dopo tempo, anzi probabilmente la vendetta arriva ancora in maniera più forte col tempo che passa. E esatto. Se ci volevi spiegare, ci hai fatto una ottima panoramica generale. Volevo chiederti se ci potevi dire un po' cos'era successo a Milano in quei giorni e a San Vittore, perché poi c'era stata anche la rivolta di Opera, sbaglio. Allora, il primo giorno, i primi fatti di giorni di 2 anni fa a Milano, alla sera, che adesso non ricordo precisamente se fosse persino in 7 sera, su un gruppo Facebook dei familiari inizia a circolare questa notizia che ci fosse in corso una rivolta al carcere di Opera. Allora alcuni solidali sono subito corsi fuori le mura a capire cosa stesse succedendo. Detto questo, quella sera non è che poi all'esterno è fuoriuscito tanto di ciò che stava succedendo all'interno. Si era saputo che stava iniziando a esserci del fermento, della rabbia, ma non si era capito un granché. Il giorno dopo veniamo tutti svegliati con la notizia che San Vittore stava andando a fuoco, ed effettivamente quando i solidali sono riusciti a raggiungere la galera c'erano i prigionieri sul tetto e le celle in fiamme. E poi è partita una giornata veramente emozionante, dove si è riusciti ad avere un dialogo con i prigionieri che erano sul tetto in quel momento. Sono accorsi tantissimi solidali all'esterno del carcere, c'è stato un via vai continuo di tantissimi solidali con queste persone che in quel momento gridavano tutta la loro rabbia nel modo più impetuoso possibile. La polizia ovviamente ha caricato, sono poi arrivate delle denunce per quella giornata a chi si era messo lì fuori. Verso sera, da alcuni familiari accorsi, abbiamo scoperto che era in corso una rivolta che ad opera. Quindi i solidali si sono postati verso il carcere di Opera, dove si è riuscito a parlare con i detenuti. Perché era notte, dei campi si riusciva a chiacchierare molto bene, l'intero braccio era completamente al buio e i ragazzi rinchiusi ci hanno raccontato il terrore che stavano vivendo, ci hanno raccontato delle cose che facevano veramente gelare il sangue, perché chiedevano ai solidali di non andarsene perché in quel momento loro avevano paura, erano stati massacrati di botte, gli era stato tolto tutto, da veramente dai beni di prima necessità, erano alle ciabatte, a qualunque cosa. Chi stava male non veniva portato in ospedale, dicevano che c'era gente con la testa aperta che veniva tenuta lì. Da lì poi nelle settimane successive dei gruppi di solidali hanno continuato ad andare almeno una volta alla settimana fuori da Opera, soprattutto per chiacchierare con i ragazzi e farsi raccontare quello che stava succedendo. E nelle settimane seguenti le privazioni e le vessazioni delle guardie erano continue. Questo è stato un po' ciò che è successo a Milano in quei giorni e in quelle settimane. Questo presidio che ci sarà l'8 marzo vuole in parte continuare a ricordare, mettere l'accento su cosa è successo in quei giorni e poi anche un focus sulla, sulla condizione attuale all'interno delle carceri, che tutta una serie di situazioni che vanno spacciato per emergenziali sono rimaste, ormai la vita se prima del... Pronto? Sì, ora sì. Pronto? Ora sì. Era un attimo caduta la linea. Dicevo che post-Covid la vita è ancora più una merda che prima. Ci sono mille difficoltà che vanno dalla posta, ai pacchi, ai colloqui e soprattutto la condizione sanitaria, che prima faceva schifo, in periodo Covid è stata una cosa allucinante e tuttora continua ad esserlo. La possibilità di essere curato, di essere assistito se si sta male in galera è praticamente nulla, e quindi un po' per ricordare, un po' per tenere l'attenzione su tutte le schifezze che continuano a succedere adesso all'interno, si è deciso di fare questo presidio per martedì 8 marzo. Perfetto, va benissimo. Allora noi ti ringraziamo. Rilanciamo l'appuntamento di martedì 8 marzo alle ore 18 in piazza L'Aquileia, esatto. fuori il carcere di San Vittore, e invitiamo insomma tutti e tutte a presentarsi martedì prossimo. Rilanceremo comunque l'appuntamento anche nella puntata di lunedì prossimo, dove leggeremo il comunicato che chiama il presidio. E niente, allora noi ti ringraziamo per la disponibilità e ti auguriamo una buona serata. Grazie anche a voi, buona serata a tutti. Perfetto, grazie, ciao ciao. Ciao ciao. Ok, abbiamo sentito la compagna, appunto abbiamo parlato del presidio a San Vittore, ora ci sentiamo un altro pezzo che è di Medi, un giovane trapper bolognese, e il pezzo si chiama Chiamare e parla appunto delle chiamate e dei colloqui telefonici e di quello che si vive un po' all'interno delle carceri, nello specifico di questa canzone delle carceri minorili. Ci sentiamo Chiamare di Medi. Giudici rimani te stesso. Il freddo scaldava se il barrio piangeva. Oggi un palazzo cade, racconta la storia. Quanti abbracci segnati nei palazzi Asher, con vite di merda riempite di gloria. È soltanto un giorno come tanti, è soltanto che sono più libero. Ogni madre che fa anche da padre, nelle sue braccia giuro mi chiuderò. Allo, allo, papà, lo so che sensi. Hai lasciato il femmino, tuo figlio medici, speravi a pezzi. Allo, papà, lo so che sensi. Tutti i ragazzi che stanno in mezzo blindo freddo e le madri là fuori piangono pensando non sia più lo stesso. I miei fratelli hanno perso persone, io ho perso tempo. Dedica sul letto corbo e chi mi è stato di fianco. Non scordo quando non c'era nessuno, una pace mi sta guardando. Non mi chiamo Aria, bebè. Ora sto chiuso in catene, la cella si chiude. Oh yeah, non so se mi senti bene. Non provare a entrare nella mia vita di merda, perché mi manderai solo in fissa. Innamorati di un ragazzo pulito bene. Non dirmi che solo più. Io mi chiamo Aria. Ora sto chiuso in catene, la cella si chiude. Oh yeah, non so se mi senti bene. Non provare a entrare nella mia vita di merda, perché mi manderai solo in fissa. Innamorati di un ragazzo pulito bene. Non dirmi che solo più la firmo. Manda un abbraccio alla zia e un saluto a tutto il quartiere. Ci sentiamo sabato per il colloquio. Un bacio, mamma. Allora, Cronache di Regime, sempre in diretta su Malaradio Milano, in streaming, sono le 19.48 e questa era Medi, questa era Chiamare di Medi, appunto canzone sul carcere. E, come detto, parliamo un po' del corteo studentesco del 19 febbraio 2020, ci facciamo dare un po' un resoconto di come è andato il corteo 10 giorni fa. Ne parliamo con un compagno. Ciao, ci senti? Ciao, ci sento. Sei? Sì. Ok, e niente, come detto, volevo capire un po' cosa è successo, perché poi a quanto pare il corteo di sabato, di 2 sabati fa, è stato appunto

Questo era il pezzo dei Mosque of Death Brigade con What We Feel, Here to Stay. E passiamo da un corto all'altro. Abbiamo parlato prima, abbiamo fatto un breve resoconto del corteo No Green Pass studentesco degli universitari a Milano che c'è stato sabato 19 febbraio. E come detto prima anche a inizio puntata, proveremo invece a parlare di tutta la settimana di mobilitazione che c'è stata a Torino e parleremo con un compagno riguardo il corteo che c'è stato ieri sempre a Torino. Ci spiegherà lui perché. Già che ci siamo, volevamo invitarvi anche a dare un'ascoltata al podcast di Radio Cane, al sito radiocane.info. Nella home page c'è insomma un podcast che hanno fatto gli altri compagni e compagne milanesi riguardo il 27F e gli anarchici dell'Accendinogra. Ora proviamo a parlarne invece in diretta con un compagno. Ciao, ci senti? Ciao, sì, ti sento. Ciao, si perdona per la voce che è veramente manchevole. Allora, niente, come detto, ti volevamo chiedere due informazioni maggiori a riguardo del corteo che c'è stato ieri e più in generale di tutta la mobilitazione riguardo il 27F e anche di quello che è successo l'anno scorso in Spagna e più nello specifico in Catalunya a Barcellona. Sì, allora iniziamo un po' a raccontare. Noi abbiamo seguito un po' le iniziative, cioè tutte le varie iniziative di solidarietà che si cercava di portare avanti il 27 di ogni mese dopo appunto il 27 febbraio del 2021, dopo l'arresto di otto persone, diciamo, manifestanti. Una parte erano anche proprio di Torino, quindi li conosciamo anche abbastanza direttamente. Quindi ieri era 27 febbraio 2022, perciò un anno preciso dalla carcerazione preventiva dei manifestanti. Allora, cosa è successo? In poche parole, dopo l'arresto del rapper Pablo Hasél, quindi arrestato per i suoi testi, le sue canzoni contro il re, contro la monarchia spagnola, sono state delle mobilitazioni per quasi due settimane, tra cui anche diversi scontri, e in queste due settimane, proprio alla fine della seconda settimana, sono stati arrestati otto manifestanti accusati di aver dato fuoco a una camionetta della polizia spagnola. Quindi le accuse erano anche abbastanza gravi, perché c'era anche il tentato omicidio. Poi col tempo si è riuscito, diciamo, a far uscire piano piano le varie persone, anche facendo delle perizie più specifiche, e quindi per dire la prima ragazza che è stata rilasciata era proprio quella che era stata accusata di avere aggiunto, diciamo, del liquido infiammabile durante il fuoco che bruciava la camionetta. Quindi sono state fatte delle perizie, si è capito che non era lei, dalla costituzione, anche dal tipo di vestiti che aveva, perciò si è iniziato già a far uscire le persone. Col tempo, se non mi ricordo bene come sono andate le cose, comunque piano piano sono usciti altri tre manifestanti, però c'è da dire anche che questi sono degli arresti preventivi, quindi non hanno un tempo limite, perciò loro possono stare dentro in carcere per chissà quanto tempo. Infatti lo dimostra il fatto che quattro di loro sono ancora dentro dopo ormai un anno e un giorno, contando che oggi è 28. In questo periodo è stato dato anche è stata chiesta una cauzione, una sorta di riscatto quasi, se non sbaglio erano 40.000 euro a testa, poi più o meno, c'è chi aveva qualche cifra un po' più alta o più bassa, comunque più o meno per intenderci 40.000 euro a testa, che sono abbastanza, diciamo, facendo il conto che inizialmente erano 8. Ora come ora, da qualche settimana se non sbaglio, la cauzione è scesa a 15.000 euro. Si parla sempre comunque di una cifra molto alta, e con tutta la solidarietà che stiamo cercando di portare è ancora lunga la cosa. Perciò noi questa settimana che è appena passata, proprio in previsione di questo corteo, abbiamo provato a mobilitarci un po' in tutta Torino, nei vari posti occupati e non, anche per dire nei giardini reali di Torino abbiamo fatto delle iniziative. Quindi inizio magari a spiegarvi tutta la settimana come è andata. In poche parole, inizia il tutto con mercoledì. Mercoledì 23 febbraio c'è stato... Ah, no, scusate, prima di dirvi questo, questo corteo non aveva solo lo scopo di portare solidarietà per gli arrestati del 27 febbraio, ma si voleva anche mettere in mezzo altri punti che ci riguardano tanto e che comunque abbiamo anche in comune, in questo caso con gli arrestati a Barcellona, ovvero i punti erano la repressione, la sorveglianza speciale e la carcerazione preventiva. Perciò noi abbiamo iniziato con, come dicevo, mercoledì 23 febbraio al Mescal Squat. C'è stato un approfondimento sulla repressione preventiva, sulla sorveglianza speciale. Il 24 febbraio, giovedì 24 febbraio, c'è stata all'Edera l'assemblea verso il corteo, quindi si è parlato per definire proprio come si voleva portare avanti l'intero corteo, eccetera. Il venerdì 25 febbraio al Barocchio Squat c'è stata la presentazione del libro di Cesare Batacchi, Caso di malagiustizia nell'Italia, forcaiola dell'Ottocento. E poi andiamo avanti con il sabato 26 febbraio, ci sono state delle dirette radiofoniche dai Giardini Reali con approfondimenti su carcere e repressione. Ci sono stati poi banchetti, cibo, eccetera. Quindi poi arriviamo a domenica. Domenica, ovvero ieri, è partito un corteo, anzi prima ci siamo ritrovati in Piazza Statuto alle 15 per fare un piccolo di presidio e un po' radunarci. Da lì eravamo già abbastanza circondati, perché c'era polizia ovunque, dalla Digos alla Celere. Buona parte di quella zona era tutta bloccata, non solo per noi, ma proprio il passaggio dei pullman erano veramente deviati o proprio bloccati. Da lì abbiamo provato a fare un percorso che noi avevamo intenzione di percorrere, di fare, ma ci è stato negato l'accesso. Quindi ci hanno un po' indirizzati loro. Ci hanno fatto fare un corteo che non è stato neanche troppo, siamo rimasti abbastanza in centro, diciamo. Quindi siamo partiti da Piazza Statuto, per poi arrivare fino a Corso Regina e arrivare ai Giardini Reali, dove anni fa, nel 2017, abbiamo rioccupato per l'ennesima volta Phoenix e poi è stato di nuovo sgomberato. Lì cosa è successo? Lì abbiamo portato un carretto con una piccola struttura di legno e cartone che ricordava appunto una camionetta della polizia spagnola, e è stato dato fuoco proprio in strada. Lì è finito il corteo. Finito il corteo, sono stato molto tranquillo, diciamo comunicativo, qualche scritta, poche tensioni, se dobbiamo essere sinceri. Il problema è successo subito dopo, perché mentre ci si stava allontanando dalla fine del corteo, quindi ognuno stava andando per i fatti propri, un ragazzo è stato fermato abbastanza vicino dalla Digos e, non avendo documenti, c'è stato un po' un'intimidazione e il ragazzo si è allontanato, ha provato a scappare. È stato quindi subito fermato, ammanettato e picchiato. Da lì altri compagni hanno visto la scena e hanno chiamato tutte le persone che erano ancora nella zona. Ci siamo recati proprio per vedere cosa stava succedendo. Da lì la Digos ha ammanettato anche gli altri due ragazzi che avevano visto tutto e li hanno portati via. Come siamo arrivati noi, è arrivata anche la Celere in forze e c'è stato un po' di battibecco per poi finire con delle manganellate, tafferugli, lanci di pietre. C'è stata qualche carica, ma niente di che. Qualche ragazzo forse è stato leggermente ferito alla testa, ma siamo riusciti poi subito a ricucirlo e allontanarci. È successo tutto intorno alle 19, non vorrei sbagliare, forse leggermente prima. E poi, quando si pensava di aver finito appunto il suo corteo, abbiamo scoperto che poi questi ragazzi erano stati portati nella questura di via Grattoni. Allora un gruppo di manifestanti ancora in giro da quelle parti, diciamo, si è riunito davanti alla questura per fare un presidio in solidarietà, e più o meno dopo un'oretta e mezza i tre ragazzi sono stati rilasciati con credo una denuncia per resistenza e oltraggio. Poi vedremo. Per finire vi dico solo che continueremo, certo, finché i ragazzi non usciranno, adesso ritornando al discorso del 27F, se i ragazzi non usciranno dal carcere, continueremo ogni 27 febbraio a portare avanti qualche iniziativa proprio di solidarietà. E, per la precisione, adesso un'ultima cosa di questa settimana qua a Torino è che sabato prossimo, sabato 5 e domenica 6 marzo, ci saranno le due giornate di Tattoo Circus al Paso Occupato. Quindi tutto benefit per gli arrestati, e ci sarà alle 10, fammi ricordare, ci sarà la domenica 6 alle 17:30 ci sarà una gli aggiornamenti col collettivo Pablo Ansel Libero, la proiezione del video La solidarietà è la nostra barricata. Ci sarà un intervento anche del comitato del 27F di Torino e la proiezione del video Prigionieri 27 febbraio, lo sapevate che. Per finire il tutto ci sarà anche il collegamento telefonico con Herman, che è uno dei ragazzi ancora detenuti. Queste sarebbero le prossime iniziative. Perfetto. Non so, è stato troppo lungo, ho cercato di ricordarmi più o meno un po' tutto, ma siamo anche stanchi da queste giornate. No, immagino. Anche perché poi diciamo che appunto gli sbirri hanno provato a fare lo sgambetto e hanno provocato, e quindi da un corteo comunque tendenzialmente tranquillo sono riusciti a creare un'altra situazione repressiva, hanno creato un po' di tensione. Qualche parte qualcosa la dovevano fare questi qua. Certo, forse andava troppo bene per le forze che avevano comunque mobilitato per sto corteo. Quindi qualcosa in effetti. Sì, hanno voluto giocarsela così. Va bene, dai, guarda, ti ringraziamo, grazie della disponibilità e scusa per questa chiacchierata sbilanciata a livello di voce. Tranquillo. Noi ora ci sentiamo un pezzo di un gruppo hardcore degli Smashrooms, Antifed Alert, e ti ringraziamo, ci sentiamo presto. Ciao. Un saluto a tutti e a tutte. Ciao ciao. Ciao. E quindi ci sentiamo gli Smashrooms con Antifa ed Alert, perché così diciamo che introduciamo il prossimo argomento e ci faremo una chiacchierata con un compagno della Sharp Milano riguardo la giornata che si sta avvicinando del 16 di marzo in ricordo di Dax. Hold on. Allora, alle 20:15 siamo sempre in diretta con Cronache di Regime su Mala Radio. Come detto, questo era un pezzo di un gruppo lombardo bresciano di un po' di anni fa, degli Smashrooms, Antifa and Alert. E con appunto Antifa and Alert andiamo a introdurre il prossimo argomento e andiamo a farci una chiacchierata con un compagno della Sharp Milano riguardo la giornata del 16 marzo che si avvicina, e più nello specifico parleremo anche con lui dell'assemblea pubblica verso il corteo di Dax che ci sarà sabato 5 marzo. Ciao, ci senti? Sì, sì, male però ti sento. Mi senti male, quello è un problema mio della voce e dei mezzi tecnici. Allora niente, come dicevamo, proviamo a farci due parole riguardo l'assemblea pubblica che ci sarà sabato 5 marzo in vista del corteo di Dax, se ci vuoi dire come nasce questa assemblea e dove si farà. L'assemblea che tutti gli anni ha chiamato la sezione. Pronto? Ti sentiamo male. C'è un po' questa. C'è un po' questo. Guarda, spazio. Era caduta la linea. Se puoi ripartire un attimo. Scusa. Sì. Da capo? Sì, sì, sì. Mi senti? Ora sì, ora sì. Vai. Ti prende poco il telefono, non lo so. Tutti gli anni in preparazione del corteo del 16 marzo e del in maniera nomata alcuni spazi milanesi e coinvolto poi tutti gli spazi che animano la vita politica della città. Questa assemblea è un po' Allora, scusate, ci sono un po' di problemi tecnici riguardo la chiamata. Ora proviamo a richiamare subito il compagno. Allora, scusa, però era caduta la linea, si sente un po' male il telefono, forse dove sei prende poco. Quindi niente, proviamo a ripartire da capo, dovremmo farcela ora. Allora, due parole sull'assemblea pubblica verso il corteo del 5 marzo. Allora, il 5 marzo si farà un'assemblea pubblica dove si parlerà dei temi che quest'anno accompagnano la memoria di Max. L'assemblea pubblica si farà al Parco di Vetra, dove c'è il campetto da basket. Diciamo che tutte le realtà milanesi o tutte le realtà che vogliono fare degli interventi parleranno e declineranno il tema del lavoro, della morte sul lavoro, dei ragazzi che sono morti in alternanza scuola-lavoro, di tutto quello che è della questione delle donne e dei posti di lavoro, piuttosto che degli stipendi, della disparità. Quindi verranno un po' declinate in vari modi la tematica sul lavoro. Sì, la tematica sul lavoro che quest'anno accompagna il ricordo e la memoria di Dax. Ok, e questo è il 19° anno in cui si commemora Dax e ci sarà il corteo del 16 marzo. E dicevi prima appunto che l'assemblea che chiama questa iniziativa è un po' cambiata quest'anno, cioè nel senso non c'è più la presenza dell'associazione Dax, è come se c'è stato un tralasciare, no? Sì, un passaggio di mano in quel senso. L'associazione Dax ha fatto un comunicato dove dice che si occuperà solo del presidio in Brioschi davanti al bar, al pub tipo dove Dax è stato ucciso. E quindi si terrà l'impegno di fare la parte del ricordo e tutto il resto viene, diciamo, lasciato come appunto come testimone alla città. E quest'anno appunto è stata accolta da un'assemblea dove hanno partecipato praticamente tutte le sigle, tutti i collettivi, tutte le

fino all'ultimo bicchiere, fino all'ultimo dei guai, fino all'ultima parola che non ci siamo detti mai. La metropoli alle porte, siamo tutti figli suoi che gridano ancora con il peso di questi anni che non ci ha piegato mai. Allora, 20 e 27, torniamo in diretta con Cronaca di Regime. Questa era Ultima Città dei Bull Brigade. E come detto, proviamo a presentare il loro ultimo disco, Il Fuoco Non Si È Spento. Allora, ci dovrebbe essere in linea Eugenio, il cantante. Ciao, ci senti? Ciao ragazzi, ciao a tutti, ciao. Bentrovati. Ciao, ciao, grazie. Allora, niente, volevamo un po' che ci parlassi del disco, ma magari anche una giusta e doverosa introduzione al gruppo, perché i Bull Brigade non nascono proprio l'altro ieri, da un po' di anni, insomma, che spingono riguardo la scena punk musicale italiana e non solo, spingono molto anche all'estero. E quindi niente, volevo partire più con la domanda del gruppo: quando nasce, un po' di discografia e appunto come si è evoluta anche la storia con i suoi componenti, se ci sono i stessi componenti dell'inizio, se è cambiata la formazione, eccetera. Va bene, allora, noi Bull Brigade nascono e si formano nel 2006 sulle ceneri di due esperienze musicali che avevano animato e infuocato la nostra gioventù, quali Young Gang e Banda de Rione. E nascono un po' così per cercare di dare una sorta di continuità a quei progetti nei quali avevamo investito molto e moltissimo negli anni che furono. E in quegli anni io tenevo un programma su Radio Blackout insieme a Stefano, il cantante degli Scontro, e appunto stavo cercando un po' di capire dove andare a riprendere un po' i discorsi che si erano interrotti con i Banda de Rione. Nel frattempo suonavo ancora con Young Gang, ma vedevo che quella tipologia di esperienza lì di lì a poco sarebbe terminata, e quindi stavo cercando un po' consolidare un po' tutto quello che era stato il lavoro degli anni precedenti in una nuova esperienza con delle persone magari che ha con voglia di girare, di fare robe anche con una maggiore intensità, e quindi fu lì che conobbi Daniele e Steve Cemento, che venivano anche loro dai Bad Dog Bui, che si erano da poco sciolti, e poi insieme a Davide in Arte Toffi, che è stato un po' il ragazzo, che è il fratello che mi ha seguito in tutte le band che ho creato, sono nati Bull Brigade. Quindi 2006, poi 2008 arriva il primo disco Strade Smarrite, poi da lì inizia un periodo di continui repentini cambi di line up, un po' portati dal fatto che poi il gruppo era partito un po' troppo forte e molti ragazzi non riuscivano a stare dietro ai ritmi, ovviamente essendo tutti lavoratori, quindi alla frenesia ai ritmi dei tour, e quindi tutta una serie di cambi di line up, poi la stabilità che ritorna, e dopo 8 anni arriva Vita Libertà. Nel mezzo ci abbiamo messo forse qualche registrazione per qualche compilation, benefit vari per compagni, un'altra roba che era uscita in ricordo di un ragazzo che era venuto a mancare, che era il cantante dei Running Riot, Colin McWilliam. E quindi poi finalmente nel 2018 Vita Libertà, e poi viene fuori ancora Chaos Brother, dello Splitcoin un Servium, viene fuori Stronger Than Time, che era un 7 pollici che avevamo fatto per iniziare a prendere le misure, a capire come poteva funzionare il rapporto lavorativo con la Demons Roadblock Entertainment, che era l'etichetta con la quale poi avevamo già pianificato di realizzare Il Fuoco Non Si È Spento. Quindi queste due canzoni in inglese che avevamo parcheggiate lì da non so quanto, che abbiamo fatto uscire un po' per vedere come lavorava questa etichetta, e poi finalmente Il Fuoco Non Si È Spento, che è uscito a ottobre, che sta andando molto bene, a molti è piaciuto, e ci sta, diciamo, e siamo arrivati praticamente al dunque, che tra 2 settimane parte il tour e partiremo da Pamplona con Non Servium, e poi speriamo appunto che non ci siano nuovi accadimenti che ci facciano fermare. Perfetto, e questa invece è una domanda un po' soggettiva, perché io sono molto affezionato, diciamo, alle sonorità di Strade Smarrite, ma poi in particolar modo anche ai gruppi prima che hai menzionato, Young Gang e Banda del Rione, insomma, sono un po' più di quella scena lì, un po' più vecchia scuola, mi piace un po' più quelle sonorità lì. Volevo chiederti quindi il perché del disco, com'è che siete giunti alla voglia e alla volontà di far uscire Fuoco Non Si È Spento, e poi io anche ho notato un po', sentendomelo, l'esigenza di cambiare le sonorità ed un maggiore, se possiamo dirla così, romanticismo sia a livello musicale che a livello di testi. Quindi volevo chiederti un po' questa cosa qui, questa evoluzione, come è venuta fuori? Ma secondo me non è che si tratti di un'evoluzione vera e propria, nel senso che noi, io sono sempre stato uno che ha affrontato la vita, le situazioni sempre molto di pancia, quindi comunque anche le questioni legate magari alle atmosfere e al mood di Strade Smarrite ovviamente erano anche legate all'età e al particolare e all'intensità con la quale io vivevo determinati anni, che comunque facevano parte di un contesto della mia vita completamente diverso rispetto a quello attuale, nel senso che secondo me c'è un tempo per ogni cosa, e c'è uno smalto anche per ogni cosa, per ogni età, nel senso che ovviamente i Bull Brigade non sono più quelli di quando abbiamo scritto e realizzato Strade Smarrite. Quelli erano anni diversi, con delle prospettive diverse, con delle modalità anche di vita e di con le quali impegnavamo il nostro tempo libero completamente diverse, stavamo molto più in strada, molto più in banda, molto più in crew, facevamo mille cose, e quindi avevamo anche un piglio, uno smalto, un approccio completamente diverso anche dal punto di vista musicale, che un po' già si vedeva che in Vita Libertà c'erano comunque delle robe che questa sorta di romanticismo, reducismo, chiamiamolo un po' come vuoi, che veniva sempre più fuori, che poi è sfociato in questa chiave del Fuoco Non Si È Spento, che secondo me sono semplicemente i Bull Brigade il giorno dopo, nel senso che molto del sound è di peso anche... Partiamo dal presupposto che tutti e tre i dischi sono stati tutti e tre registrati con 3 line-up diverse, perché a parte Gigi, che ha preso parte a 2 registrazioni, degli altri sono sempre stati componenti diversi, quindi un po' anche quello ha fatto la sua parte. Poi ovviamente c'è il passare degli anni, comunque non, cioè se, non mi sarei mai sentito a mio agio a 40 anni a cantare ancora Lotta per Noi dei Banda del Rione, comunque ad avere un approccio di quel tipo come quando ne avevo 20, e quindi cerchiamo sempre di essere coerenti e sinceri con noi stessi anche rispetto all'età che abbiamo e alle tipologie anche di situazioni nelle quali ci troviamo nel quotidiano. Va bene, io spero che comunque lotta per noi, lotta con noi, la rifai prima possibile in qualche live, e così magari mi sgolo più o meno come sono sgolato oggi. E, e dai, ti faccio l'ultima domanda, che questa è una domanda che stiamo facendo a tutti i gruppi. Sì. Anche in base alla situazione pandemia che c'è stata, ora pare che si stia uscendo da questo stato di emergenza, quindi si sta ripartendo, però appunto mi dicevi prima del tour, come vi state organizzando con le date, i tour, anche in base alla situazione pandemica che appunto ha stravolto tutto fino a pochi mesi fa. Esempio anche il concerto che dovevate fare a Milano a gennaio e poi slittato. Ora ci direi tu quando verrete a Milano. Ma sì, in realtà un po' questa è una, sono situazioni che ovviamente sarà stato detto e ridetto dopo non so quante decine e decine di volte, hanno un po' sparigliato le carte a tutti quelli che stavano provando a pianificare attività a medio e lungo termine. Noi avevamo questa data che era già la post, cioè il rinvio di un'uscita di un disco che sarebbe già dovuto uscire almeno 12 mesi prima, che l'avevamo messa in modo che ci sembrava inattaccabile. Poi, come per magia, è arrivata la terza ondata e è arrivato quel decreto all'ultimo secondo che nessuno si aspettava. E quindi in fretta e furia abbiamo dovuto cercare di dargli una nuova collocazione, che poi alla fine è stata trovata in venerdì 15 aprile. Quindi poi la data zero diventa Torino, sabato 9 aprile al Bunker, e poi successivamente venerdì 15 aprile verremo fino a Betty in Santeria Milano a presentare e a fare la vera data zero del Fuoco Non Si È Spento, perché ci saranno tutta una serie di situazioni inedite o comunque esclusive. Avremo una squadra, uno staff che lavorerà quella serata super, super attento e preparato per far sì che il concerto sia una roba veramente indimenticabile. Stiamo lavorando come dei matti a questa roba e siamo veramente dedicando 24 ore su 24, 7 giorni su 7 a questa ripartenza, insomma. E quindi siamo super super concentrati e super determinati. Speriamo ovviamente che non vi siano altri accadimenti che si mettano di traverso, che comunque possano rovinare i nostri piani. E ci abbiamo le date in Spagna che partiranno tra 15 giorni. Faremo Pamplona, Bergara, faremo Madrid, Baracaldo nei Baschi, faremo Barcellona e Lieda in Catalunya, e poi saremo in Italia per una serie di concerti che partiranno appunto Torino, Milano, cioè Roma, Taranto, e via via tutta un'altra serie di date, tra le quali l'esclusiva del Punk and Disorderly. E poi ci dedicheremo qualcosina in estate, anche qua con qualche bella chicca, ad esempio suoneremo con i Good Riddance al Hellfest. E quindi un po' di soddisfazione appunto che dopo tanti anni di gavetta magari possono anche chiudere il cerchio e poi farci... Poi ci possiamo dedicare alla pensione, ecco. Vabbè, addirittura, dai, poi vediamo. Scusa, dove suonate con i Good Riddance? Suoniamo in un festival che si chiama Low Fest a Guardamiglio, che dovrebbe essere vicino nel Piacentino, credo. Ok, qui vicino comunque. Sì. Va bene, dai, perfetto. Guarda, io ti ringrazio. Chiudo la chiamata perché io anche sto soffrendo con sta voce, immagino che tu ti sarai anche rotto di sentirmi con questa voce rotta. Disponibilissimo e gentilissimo, ti salutiamo e noi ora ci sentiamo altri due pezzi sempre del CD The Bull Brigade, Il Fuoco Non Si È Spento. Ci sentiamo prima Ansia, che dove c'è anche Samal di Venezia Hardcore, e poi ci sentiamo Sommersi. Va bene. Dai, un abbraccione. Ciao ragazzi, ciao, un presto. Abbraccio a tutti, grazie dello spazio. Ciao ciao. Ciao ciao ciao, grazie a te. Come detto, Ansia e poi Sommersi, The Bull Brigade. Mentre mi sogno preso dentro questa stanza, ad oltranza, io e te. notti in cui non dormi e poi nemmeno ti sveglierai. E ci siamo persi, aggrappati a una vita ribelle, ai sogni perversi. Allora, 20:48, siamo quasi giunti al termine di questa quarta puntata e ultima puntata di febbraio di Cronache di Regime. Questi erano i due pezzi, insomma, dei Bull Brigade tratti dal disco Il Fuoco Non Si È Spento. Abbiamo appena finito di presentare il CD con il cantante, ci siamo fatti una chiacchierata con Eugenio. E ora, come al solito, sulle note di Gloria Gaynor a We Survive, proveremo a sopravvivere a Milano in questa settimana e vi diciamo un po' di date e un po' di iniziative che ci sono giunte, quelle che siamo riusciti a reperire. E quindi niente, vi diciamo un po' cosa c'è da fare questa settimana a Milano. Iniziamo subito con domani presso la libreria Ananzi in via Breda 54 a Milano ci sarà la proiezione, come ogni martedì alle ore 20 da ora fino al 15 marzo, di film giapponesi, nello specifico manga o comunque di cartoni animati. E quindi domani, martedì 1 marzo, dalle ore 20 ci sarà Mind Game presso la libreria Ananzi. Mercoledì 2 marzo invece ci sarà il secondo di tre appuntamenti chiamato Donne in Lotta, ciclo di iniziative e dibattiti. E quindi mercoledì ci sarà il dibattito sulla partecipazione delle donne nelle lotte e sugli effetti della pandemia presso Scienze Politiche. E quindi questo ciclo di iniziative e dibattiti qui è organizzato dall'Assemblea di Scienze Politiche. Scusate, e come tutti i giovedì, e quindi anche questo giovedì 3 marzo, c'è il solito Barbones, bar tar a luce e vino, dalle 6 alle 11 in proprietà pirata, in via Leningrado 8 a Milano, nell'occupazione dei pirati e delle piratesse. Invece venerdì 4 marzo in Branca, in via Breda 54, ci sarà dalle 21 un concerto benefit con un po' di gruppi, con i Tedus, i Demikov, gli Evil Cosby e un altro paio di gruppi. Quindi dalle ore 9, dalle 21, il concerto benefit venerdì 4 marzo in Casa Brancaleone, in via Breda 54. Andiamo a sabato perché è una giornata che sarà piena di iniziative, come abbiamo detto prima. Si inizia alle 14 in Piazza Vetra, scusate, al Parco di Vetra, presso il campo da basket. Ci sarà l'assemblea pubblica verso il 16 marzo, il nostro sangue, il loro profitto. Ne abbiamo parlato prima con un compagno della Sharp Milano che ha presentato l'iniziativa. E sempre sabato, poi continuiamo invece dalle ore 15 presso Piazza Costantino, si può raggiungere con la metro M2 La Verde e scendere a Crescenzago. Ci sarà Per un carnevale lungo una vita, tutte e tutti a Crescenzago, luogo dove nacquero i coriandoli, per un carnevale fatto di felicità, di autonomia territoriale, di giustizia ecologica e sociale. Quindi per sabato del carnevale ambrosiano c'è la sfilata di carnevale che partirà da Piazza Costantino sabato 5 marzo alle 3. Sempre sabato 5 marzo invece alle ore 4 ci sarà il carnevale popolare contro il capitale, che è organizzato dagli abitanti e dalle abitanti di Via Gola, e ci sarà anche lo spazio comune Cuore in Gola aperto, e quindi ci sarà questa iniziativa per il quartiere. E sempre sabato invece alle 17, quindi un sabato pregno di iniziative, ci sarà a Monza l'aperitivo e la presentazione di Fuorilegge, uscire dal recinto della repressione con alcune compagne della cassa di solidarietà La Lima a Roma. Non possiamo certo combattere il potere con le sue stesse armi, cioè le leggi, ma conoscerle aiuta a riconoscere l'ingiustizia di fondo del cosiddetto diritto e della società che lo esercita. Quindi in via Timavo 12 a Monza, presso la FO Boccaccio 003, sabato alle 5 ci sarà la presentazione di Fuorilegge, uscire dal recinto della repressione. Bene, abbiamo quasi finito con le iniziative, sempre a Boccaccio il giorno dopo, dalle 3 alle 21 ci sarà l'iniziativa Dax Vive, è un'iniziativa per il 19° anniversario dell'omicidio fascista di Davide Cesare, che è stato ucciso il 16 marzo del 2003 a Milano. Ci sarà writing, musica, la proiezione La Notte Nera di Milano con l'introduzione a cura dell'associazione Dax, 16 marzo 2003, e poi ci sarà l'aperitivo a seguire, benefit 130.000, si specifica nella locandina, ingresso gratuito. E per questa settimana ci siamo, già che ci siamo e già che abbiamo parlato di carcere, rilanciamo l'appuntamento dell'8 marzo alle ore 18 e lo rifaremo anche settimana prossima in diretta. Il presidio sotto al carcere a San Vittore, a Piazza L'Aquileia, e ricordiamo a tutte e tutti che invece il 3 aprile alle ore 15 al Parco di Via Mengoni, Milano, ci sarà l'iniziativa chiamata Il Carcere Fa Schifo, saluti ai miei ragazzi rinchiusi al Beccaria, All My Friends Are Bad Kids. Quindi il presidio al carcere minorile si terrà il 3 aprile alle ore 15 fuori il carcere minorile, la fermata della metro è Bisceglie. Bene, noi abbiamo terminato, ma ora manderemo due tracce. Io sono così senza fiato, senza voce, perché ieri con un po' di amici e un po' di amiche si è andati a vedere la partita del Dal Pozzo, il ricordo di Guccio. 8 anni fa, nello specifico il 24 febbraio 2014, se ne andava questo compagno che ha scelto lui di andarsene. E quindi niente, le prossime due tracce le volevo dedicare a Guccio. Ci sentiamo una milanese, un po' tamarra, di Marrakesh, Gue, Love, e poi ci sentiamo Yesterday di Pennywise, il ricordo di Guccio. Non ci avrete mai come volete voi, e Guccio è sempre con noi. Buona serata a tutte e tutti, e ci sentiamo settimana prossima, lunedì, sempre alle ore 19, con Cronache di Regime, sempre in diretta da Revdar. Ciao. Fama, Vuitton e Prada, non conta nada se tu non sei con me. Qualcuno in meno, qualcuno in cielo, ho il cuore pieno, non voglio nuovi friend. No, per gli amici veri che ho, per tutte le storie che so, pregherò per chi nuota ancora nei guai, chi vuole scappare non può. No, no, per tutte le strade in cui sto, le donne che ho avuto, che avrò, pregherò per tutto l'amore che dai, sempre più di quello che do. No, no, no. La saga mi guarda, la strada mi guarda, cat calling su di me e mi gridano marra, chi è in difficoltà, cosa deve fare chi è ricco non sa, allaccio non fa, prima che gli allacciassero il gas, ero un re nei miei sogni, young boy vedo me nei tuoi occhi, abbiamo una malattia che non si cura con i soldi, se ho chiuso contatti, però l'ho fatto solo per salvarmi, sono un uomo adesso, odiami che ti amo lo stesso, perché dolore è amore in estremo. Gioielli e fama, Vuitton e Prada, non conta nada se tu non sei con me. Qualcuno in meno, qualcuno in cielo, ho il cuore pieno, non voglio nuovi friends. No, per gli amici veri che ho, per tutte le storie che so, pregherò per chi nuota ancora nei guai, chi vuole scappare non può. No, no. Per tutte le strade in cui sto, le donne che ho avuto e che avrò, pregherò per tutto l'amore che dai, sempre più di quello che do. Solo amore per la gente, senza apostrofo direi. Yeah, la strada è la mia donna, frate ucciderei per lei. Lo sai che mi brucia il petto, per questo love e rispetto. Lo sai che brilla il mio pezzo, lo sai che resto lo stesso. Colpo caricato, sono innamorato della city e del suo corpo del reato. Sta vita è un campo minato, per questo il cuore spinato. Il mio amore extra, voglio ispirare tutti quei raga che l'hanno persa. Strada maestra, non ti ripaga, sei solo maestra la strada. One love. Love. Per gli amici veri che ho, per tutte le storie che so, pregherò per chi nuota ancora nei guai, chi vuole scappare non può. Love, love. Per tutte le strade in cui sto, le donne che ho avuto che avrò, pregherò per tutto l'amore che dai, sempre più di quello che do. Love, love, love. Gioia e fama, Vuitton e Prada, non conta nada se tu non sei con me. Qualcuno in meno, qualcuno in cielo, ho il cuore pieno. Non voglio nuovi friends. Da quei portici, in quei vortici, senza accorgerci siamo diventati dei re. Nei pericoli, negli ostacoli, solo i soliti. Non voglio nuovi friends. Solo amore per queste strade, per tutta la gente che c'è dall'inizio, per tutti quelli che ho perso lungo il cammino. È stato un lungo viaggio. I ragazzi di Via De Pretis, del Vecchio, tutti i fratelli a cavallo, in Teramo, Lope, Tre Castelli, Cascina, One Love. Love. Gioia e fama, Vuitton e Prada, non conta nada se tu non sei con me. Qualcuno in meno, qualcuno in cielo, ho il cuore pieno, non voglio nuovi friends. Ashes and over the hill, we knew more than we ever will. Back when the days passed by so slow, and now we'll never know. The sense of tomorrow was far away, and our dreams they will never fade. We never thought the good times would end. Can we go back to those days when everything was simple then, and nothing could ever change? Back when the shadows of our days gone by, they seem like scenes from a different life. We didn't notice as the days went past, we knew it couldn't last. But looking back, I wouldn't change a thing. The memories shared will always stay with me. We never thought the good times would end. When everything was simple then, and nothing could ever change. Can we go back to those days? We didn't ever care at all. I wish I could remain back in yesterday.